con Rolando Giambelli del fan club italiano dei Beatles per parlare di Imagine, il film di John Lennon, Yoko Ono e Steve Gebhardt in uscita per Nexo Digital l'8, il 9 e il 10 ottobre. Rolando, ben trovato. Grazie a voi, buona serata. Siamo qui tutti felici di questa uscita perché ci saranno delle sorprese fantastiche in questa nuova edizione di Magine, per cui siamo in fibrillazione. Abbiamo letto un po' di notizie che stiamo aspettando, insomma, e stiamo coinvolgendo un po' tutti i nostri associati, simpatizzanti, fan di John Lennon. Io sono soprattutto fan di John Lennon, per cui in modo particolare sono qui in fibrillazione. Senti, lo raccontiamo brevemente? Sì, dai, vedi, diciamo, Imagine è un film che noi abbiamo già visto, insomma, in un certo modo è un film che è uscito ancora negli anni Ottanta, per cui è un documentario, in realtà è la storia della vita di John Lennon in varie occasioni, mentre lui viveva con Yoko Ono nella sua bellissima residenza in Inghilterra, poi si sposta negli Stati Uniti, registra concerti, propone in varie occasioni da vivo con vari artisti, tra cui ricordo con grande piacere Klaus Voormann, che era un suo vecchio amico di quando stavano ad Amburgo con i Beatles, Andy White degli Yes, insomma, Nicky Hopkins, dei Rolling Stones, insomma, George Harrison, dei Beatles, che fanno delle cose insieme durante queste riprese. È veramente un film a tutto tondo che ci racconta questa vita leggendaria di John Lennon, visionario, psichedelico, cioè tutte le sfaccettature di questo personaggio poliedrico vengono rivelate un po' in questo, c'è proprio una rivisitazione a 360 gradi di John Lennon. Senti, quali sono gli elementi del film che più ti hanno impressionato in maniera positiva? Beh, diciamo soprattutto io che seguo un po', diciamo, la parte musicale, sono le registrazioni, sono le riprese in studio di John Lennon che canta e suona, e devo dire che sono stupende, ci sono delle immagini meravigliose di queste session di registrazione nei vari studi, ma direi un po' tutto, diciamo, è un film che ti avvince dalla prima scena all'ultima, perché ogni cosa non ti lascia mai un attimo ti tiene legato con l'occhio sullo schermo, per cui devo dire è veramente un capolavoro della musica, della cinematografia di spettacolo. Io ho apprezzato moltissimo anche la parte poetica, diciamo, delle riprese nella stanza bianca, il pianoforte bianco, Yoko Ono che va, che viene, insomma. Tutte queste mimiche che vengono un po' dalla fantasia visionaria di John Lennon, che appunto quando anche fondò i Beatles aveva dato già un'impronta molto importante in questo senso anche al gruppo di Liverpool, quando si trovarono, fino a quando erano addirittura a scuola, facevano la Quarry Bank School con i suoi amici, i Quarrymen, tra cui Pete Shotton, Colin Henton, insomma, e tutti i vari compagni di scuola che fin da bambino lo avevano accompagnato. Senti, rappresenta anche un po' un quadro di un periodo storico? E diciamo senz'altro il periodo storico diciamo, dopo Beatles e tutti gli anni 80, insomma gli anni 70, diciamo che noi lo insegniamo in questo contesto, è molto molto variegato, e devo dire che i brani che lui ha composto dopo i Beatles hanno avuto un'importanza fondamentale anche sull'influenza che ha dato ad altri musicisti che gli sono stati vicini, e che comunque io dico sempre che i Beatles e i dopo Beatles sono stati una grande scuola, con John Lennon, anche George Harrison, Paul McCartney, insomma un po' tutti hanno saputo dare, dopo lo scioglimento del gruppo, un grande apporto all'evoluzione musicale di quell'epoca che tutt'oggi noi ci godiamo e apprezziamo. Per questa nuova uscita in sala parlavi di novità, ecco, ci puoi anticipare qualcosa di quello che si vedrà in sala? Beh, diciamo che noi avremo senz'altro, stiamo coinvolgendo dal punto di vista passionale tutti i nostri aderenti, i nostri associati, i nostri simpatizzanti e addirittura stiamo preparando per il 10, perché la proiezione in sala sarà appunto l'8, 9 e 10 di ottobre, 9 sarebbe poi il compleanno sarebbe stato il compleanno di John Lennon. E in questo senso abbiamo preparato un po' tutti i fan a cantare addirittura Imagine all'unisono tutti insieme in omaggio a questo anniversario. E il 10 addirittura a Brescia, nella multisala Oz, abbiamo pensato di raggruppare tutti i nostri amici, simpatizzanti e daremo a tutti un testo di Imagine. E chi vorrà portare una chitarra, ovviamente cercheremo di fare in modo che tutti siano accordati giusti e che tutti abbiano un'idea di come cantare la canzone. E poi abbiamo anche in testa di registrare questa serata e di inviare eventualmente, se dovesse riuscire bene, anche un video di ringraziamento a Yoko Ono che ci dà questa opportunità di avere un nuovo film, una nuova opportunità di goderci ancora una volta John Lennon. Sai in quante sale si vedrà? Dunque dovrebbe essere, sono parecchie centinaia, sono in tutta Italia e io ho ricevuto un elenco che adesso io non ho qui sott'occhio, comunque sono parecchie sale, soprattutto nelle città grandi come Milano, Roma, so che almeno in queste città sono previste proiezioni addirittura in 5, 6, 7 sale contemporaneamente, proprio per dare a tutti la possibilità di vedere il film l'8, il 9 e il 10 a seconda del loro tempo a Rolando, disposizione. a questo punto ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sugli eventi e sulla vostra attività più in generale? Ma guarda, io vi ringrazio, il nostro sito è www.beatresiani.com, sarebbe beatresiani.com, glielo dico come si scrive, così non sbagliamo. Abbiamo un sito, abbiamo una pagina Facebook, Beatresiani, anche questa, e poi per chi volesse iscriverci, la nostra posta, l'indirizzo di posta è beatresiani@beatresiani.com e c'è un link dove sono citate proprio tutte le sale d'Italia in cui viene proiettato il film Imagine, appunto grazie al Nexo Digital che ha assemblato questa bellissima opera di Yoko Ono, di John Lennon. E allora ricordiamo la nuova uscita in sala di Imagine di Steve Gebhardt, John Lennon e Yoko Ono l'8, il 9 e il 10 ottobre per Nexo Digital. Un saluto e un ringraziamento a Rolando Giambelli del fan club italiano dei Beatles. Rolando, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo e viva Radio Onda Rossa e grazie per questo supporto che noi stiamo dando giorno e notte. Devo dire, in questi momenti siamo provati ma felici perché stiamo veramente lavorando di brutto, come diciamo qui quando siamo sotto pressione. Comunque io spero di aver dato qualche piccola notizia interessante, anche perché il film veramente è stato rimasterizzato in maniera fantastica e ci sono delle aggiunte.